24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci alle 7:21 minuti, cari ascoltatori, siamo in diretta fino alle 9, un'altra giornata con 24 mattino. Il nostro sondaggio di oggi, subito lo voglio lanciare, è già votabile su radio24.it. parliamo dell'immigrazione, l'ipotesi di aiuti economici alla Tunisia per ridurre gli sbarchi. Siete d'accordo su questa ipotesi? Votate su radio24.it, ne parleremo alle 8:30 e iniziamo subito nella lettura dei giornali in edicola. In primo piano. Martedì 5 aprile, l'apertura del Sole 24 Ore dedicata alle nomine. Finmeccanica cambia guida. Recchi, presidente Eni, e Colombo Enel, confermati Conti e Scaroni. Le nomine approvate ieri con la via libera del Tesoro attorno alle 21 erano già state anticipate dai giornali ieri. Poi l'immigrazione ancora sulle prime pagine. Corriere della Sera, immigrati, per ora niente intesa. Repubblica, Tunisi dice no a Berlusconi. Per la Stampa, immigrati, si tratta sui rimpatri. Libero ha un po' il titolo che riecheggia il nostro sondaggio. Meglio pagarli che tenerli. Così titola Libero. Alla Tunisia 300 milioni per riprendersi gli immigrati. Ripeto, è il tema del nostro sondaggio. Pagare, secondo voi, è giusto? Sì al permesso temporaneo, così titola il Messaggero, mentre il giornale si concentra sul Madoff romano, no? Il Madoff de Noantri, il Madoff de Parioli. Scudo fiscale, i 700 nomi della lista che scotta. Per il Fatto Quotidiano, crimini e misfatti, Berlusconi e Berluschini. La Camera lavora solo per salvare il Caimano dai processi. Per l'Unità invece fuori, uscire dal buio, oggi la mobilitazione contro il colpo di mano sulla giustizia, le piazze che si animano. Le due segnalazioni da cui voglio partire, la prima è sul Corriere della Sera, pagina 23, parla ed è affranta, distrutta, preoccupata anche per le minacce che riceve Rita dalla Chiesa, la conduttrice di Forum, per la vicenda della figurante pagata 300 euro per recitare la parte della terremotata all'Aquila. La furia dei terremotati abruzzesi l'aveva messa in conto. Mi scrivono: la Palermo onesta che amava tuo padre ti disprezza. Come si dorme nel letto di Putin? Tuo padre si sta rivoltando nella tomba. Anche agli insulti per strada però non era preparata. Venerdì sono dovuta andare via da una pizzeria di Ponte Milvio. Da un tavolo è partita una provocazione, da un altro un applauso di risposta. Scena simile il giorno dopo all'Auditorium Parco della Musica. Due ragazzi mi urlano: ma non si vergogna, complimenti per la trasmissione. Non l'avevano neanche guardata, ma però mi aggredivano. Insomma, Rita dalla Chiesa dice: mi aspetto gli insulti, cosa che non mi aspettavo però era il fuoco amico delle Iene, con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, che hanno usato espressioni nei suoi confronti del tipo: è ora di cambiare quella vecchia anziana figurante che fa la conduttrice, un barboncino con la parrucca. Insomma, una Rita dalla Chiesa distrutta dopo la puntata in cui questa figurante è comparsa come terremotata e dice: io non lo so, la storia di base era vera, avevamo avuto la segnalazione via fax di una moglie che chiedeva all'ex coniuge una somma una tantum al posto dei versamenti mensili, e nel nostro database di 10.000 provini avevamo questa Marina Villa di Popoli, che un anno fa ci aveva raccontato davvero di essere scampata al terremoto. Chissà, superficialità, leggerezza, non so risponderle come sia stato possibile, ma immagino non ci sia stata malafede. Cui prodest? Di certo non al programma o alla sottoscritta. E poi lo sfogo di Rita dalla Chiesa, che dice: mi hanno chiamato soltanto Antonella Clerici e Massimo Giletti. Da tutti gli altri, soprattutto quelli di sinistra, i miei amici di sinistra, tutti spariti. E Fabrizio Frizzi? Beh, ma lui non è un collega, è l'uomo che ho amato. Il fratello Nando dalla Chiesa ha usato parole affettuose nel suo blog. Rita, pur dipendente Mediaset, non si è mai dissociata da me neanche alzando un sopracciglio. Insomma, conclude Rita dalla Chiesa in questo colloquio con Elvira Serra sul Corriere: ci sono rimasta profondamente male, non avrei mai voluto far soffrire chi non si dà pace da 2 anni. Io il dolore lo conosco. Ricordiamo, insomma, Rita dalla Chiesa, sapete, la figlia del generale dalla Chiesa ucciso dalla mafia. Non mi sarei permessa, sia eticamente sia professionalmente, di mancare di rispetto all'Aquila e ai suoi abitanti. Chiedo scusa se posso avere sbagliato qualcosa. E all'Aquila andrò, ma non sono tenuta a farlo quando vogliono i giornalisti. È stato uno scivolone televisivo, è diventato un caso politico. Così Rita dalla Chiesa parla al Corriere. La seconda segnalazione è spassosa, tranne che per le persone che vi sono capitate in questa vicenda. Beh, forse io non l'ho visto, ma mi ha fatto molto ridere l'idea del film Immaturi di Paolo Genovese, quello che mette in scena uno dei terrori più classici degli italiani, quelli di essere chiamati dopo anni a dover rifare l'esame di maturità quando si è diventati grandi. Il problema è che è successo veramente. A Palermo, immaturi come al cinema, esame da rifare per 150. Leggo dalla stampa, Riccardo Arena. Palermo, un istituto falsificava le prove all'insaputa dei candidati nel 2002-2003 e ora 150 ex maturati sono stati chiamati, devono rifare l'esame di maturità. Anche per Libero, truffa in Sicilia, il diploma era tarocco. Maturità da rifare per 150 ex ragazzi. Io immagino la loro disperazione. Tra questi, tra l'altro, c'è un maresciallo dell'esercito che ora, già col fatto che la maturità cade il diploma, cade anche la qualifica, insomma, da maresciallo, per cui diventa sergente. C'è chi rischia il posto in comune perché non ha, se decade il diploma, che era magari un motivo per aver vinto un concorso, decade anche il posto di lavoro per il quale quel diploma è servito. Insomma, un incubo che si sta materializzando per 150 ex maturati o maturati che diventano maturandi, non si capisce, insomma, devono rifare l'esame di maturità. Mamma mia, non vorrei proprio essere nei loro panni. Allora, ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi ripartiamo dalle cose importanti. Voglio citare anche, come abbiamo sentito nel GR, che su il Corriere della Sera c'è un'anticipazione, c'è un vero e proprio scoop alla vigilia del processo Ruby. Sono state scovate le 9.000 pagine degli atti giudiziari, 3 telefonate, intercettazioni con l'audio, ovviamente trascritte, in cui Silvio Berlusconi parla con Nicole Minetti, Maristel Polanco, Raissa Scorchina, e che oggi il Corriere pubblica tra poco. In primo piano. L'immigrazione dunque è il tema principale che trovate sui giornali, perché ieri Berlusconi e i Maroni sono andati a Tunisi, non c'è l'accordo e oggi infatti Maroni dovrà tornare a Tunisi per formalizzare questo accordo, tanto che la Padania titola in prima pagina: rimpatri, giornata decisiva a un passo dall'accordo. La realtà forse è un pochino diversa. Per esempio, interessante la lettura di un'intervista sul Corriere della Sera, pagina 2, del ministro del turismo tunisino Mehdi Awas. Intervistato dice: serve un piano da 5 miliardi su scala europea. Cari ascoltatori, io ve l'avevo detto ieri, pur non contando nulla. Chiedono soldi, questo è il tema. Soldi. E infatti, dice il ministro, penso che un accordo si troverà sull'emergenza. Il tema però è capire quanta tenuta avrà da qui a 3-4 mesi. Cioè già si pongono dei problemi tra 3-4 mesi. Che significa, chiede il Corriere? Beh, se pensiamo di risolvere il problema mettendo più navi a guardia delle coste, non andremo lontano. Negli ultimi 3 mesi la nostra economia è andata a picco, la Tunisia è stata saccheggiata per anni da Ben Ali. Il risultato è che ci troviamo 500.000 disoccupati. Se andiamo avanti con questo ritmo produttivo ci vorranno 5 anni per riassorbirli. Al che a un certo punto Giuseppe Sarcina chiede: scusi, converrà che l'Italia non dovrà risollevare le sorti dell'economia tunisina? Ma certo, risponde il ministro, questa è una questione da affrontare su scala europea, se non mondiale. Quindi, insomma, molto chiara l'intervista. Chiedono soldi per l'economia che è andata a catafascio per via di la dittatura Ben Ali, così dice il ministro, e anche questa ultima rivoluzione. Sta di fatto che la situazione soprattutto non è una situazione di tensione tra Italia e Tunisia, ma anche una situazione di tensione certificata da tutti i giornali all'interno dello stesso governo. Tra il premier e Maroni è grande gelo, titola per esempio Repubblica, ma Bossi dice sia i permessi temporanei. È stata una giornata nella quale, dopo il vertice a Tunisi, c'è stato un vertice in serata a Palazzo Grazioli tra Berlusconi e la Lega, i maggiorenti della Lega, anche Umberto Bossi. Anche il giornale titola, insomma, clandestini, braccio di ferro, Berlusconi-Bossi. Ad Alberto Signore, a pagina 7, scrive così: parlare di rottura sarebbe eccessivo, ma non c'è dubbio che per la prima volta da anni la tensione tra Berlusconi e Bossi ha superato i livelli di guardia. Lo certifica anche il giornale. Anche per la stampa, pagina 3, il Cavaliere non vuole più fare il parafulmine della Lega. La Lega insiste, insomma, fuori tutti e no alle tendopoli al nord, ma Berlusconi in questo retroscena avrebbe stoppato dicendo dobbiamo farci carico tutti, quindi anche al nord, del problema della Lega. Secondo il secolo XIX addirittura Bossi si è presentato a questo vertice dicendo così: mandali a casa tutti o perdiamo le amministrative, e se perdiamo le elezioni il primo a cadere sei proprio tu, riferito a Silvio Berlusconi. Sta di fatto che però, nonostante questa proposizione molto dura in origine, alla fine la Lega pare che abbia ceduto su uno dei temi sul quale si spinge da tempo, vale a dire dare i permessi temporanei, come racconta Marco Ludovico sul Sole 24 Ore a pagina 7. Lega sì al permesso temporaneo, perché c'è un articolo della Bossi-Fini, l'articolo 20 di questa legge che regola i flussi migratori, che prevede la possibilità di dare dei permessi di soggiorno temporanei di 3, di 6 mesi, in modo che queste persone poi a quel punto possono andare anche, non possono per esempio essere più fermate al confine con la Francia, perché hanno dei permessi temporanei. La Lega avrebbe detto sì. C'era un po' di scetticismo su questo, perché dire sì vorrebbe dire insomma aprire i rubinetti, come dire, dare un segnale a tutti i migranti, dice venite qui tanto poi avrete il permesso temporaneo. E invece la Lega in sostanza dice sì, racconta Marco Ludovico, perché se da una parte rinuncia alla politica muscolare dei respingimenti, ottiene però che i tunisini innanzitutto possono andare liberamente, come la maggior parte di loro intende, verso la Francia, per l'appunto, comunque fuori dai confini italiani. Insomma, è un modo in realtà anche per liberarsene, perché la maggior parte di queste persone vuole andare appunto all'estero, per la precisione soprattutto molti di loro che sono in madrelingua francese, proprio in Francia. Comunque sul tema immigrazione ci torneremo alle 8.30, il tema del nostro sondaggio, ripeto, aiuti economici alla Tunisia per ridurre gli sbarchi, siete d'accordo? È d'accordo sicuramente Libero, come detto il titolo di apertura, meglio pagarli che tenerli. Maurizio Belpietro, il direttore, fa un editoriale dicendo è l'ora della realpolitik, e dunque dare i soldi a un paese perché controlli le sue coste sembra assurdo, ma è l'unico modo per fermare l'invasione, altrimenti poi, aggiungo io, i costi ce li abbiamo in casa. Comunque, di questo discuteremo alle 8.30, buttiamoci nella questione della settimana politica dominata dal tema della giustizia in tutte le salse. Tra l'altro alle 8.20 avremo l'intervista all'onorevole Maurizio Paniz, che ritroveremo, è colui che è relatore del processo breve, è colui anche che ha portato in aula il tema del conflitto di attribuzione, se sollevare il conflitto di attribuzione alla Consulta, alla Corte Costituzionale, per il processo Ruby, che inizia domani, il processo in cui il premier è imputato di concussione e prostituzione minorile. Oggi la Camera si esprimerà su questo, voto sul conflitto di attribuzione in aula anche il processo breve, così titola pagina 8 del Corriere. Per la Stampa racconta Ugo Magri, è una giornata politica intensa perché i responsabili arruolati per la prova di forza, ci sarà infatti in diretta TV tra l'altro il voto alla Camera, in cui la Camera deve decidere appunto se sollevare presso la Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione sul processo Ruby, cioè in sostanza se la Camera deve decidere se chiedere alla Procura di Milano, alla Corte Costituzionale, guardate che non è la Procura di Milano, il Tribunale di Milano che deve decidere, ma il Tribunale dei Ministri, in quanto Berlusconi è il Presidente del Consiglio. Questo mi permette, come detto, di andare al Corriere della Sera. È la vigilia del processo Ruby, dell'inizio, anche se ieri abbiamo scoperto che insomma non ci sarà nulla di che, una prova, un'udienza tecnica, giusto per stabilire la prossima udienza tra un paio di mesi, ma certo alla vigilia piomba, come un macigno piombano le tre telefonate che Silvio Berlusconi, nelle quali Silvio Berlusconi, per la verità non lui, è stato intercettato, ma erano intercettate le persone con cui lui parlava, perché è vietato intercettare un parlamentare senza autorizzazione, e che sono finite nei faldoni, nelle 20.000 pagine depositate in tribunale. E tra l'altro Luigi Ferrarella, il cronista giudiziario del Corriere, scrive sono finite per errore, cioè non dovevano finire lì, le conversazioni non dovevano per legge essere trascritte. Questo è il titolo dell'articolo di Ferrarella, che spiega appunto tutta la procedura e tutta la legge al riguardo, che è molto precisa. La procura non le utilizzerà, però sono finite nei faldoni e quindi sono finite sul Corriere della Sera, che le ha scovate. Rubi, 3 telefonate di Berlusconi negli atti della Procura di Milano. Eccole qui allora. Ve le leggo, sono il virgolettato di Berlusconi, che prima parla con Nicole Minetti. «Come sta la mia consigliera bravissima? Mi parlano tutti così bene di te, amore. Tutti, quelli della Lega, i nostri, così poi quando ci sono le elezioni vieni in Parlamento». E la Minetti dice: ma lo sai che l'altro giorno è venuto da me in consiglio Giuliante? E chi è Giuliante? Chiede Berlusconi. È l'avvocato del PDL nonché di Lele Mora. È venuto in consiglio e mi ha raccontato tutta la storia. C'è questo PM di nome Forno che sta seguendo il caso e che secondo lui non adesso ma a settembre mi chiamerà, perché comunque sia la Rubi che l'altra str della Michelle hanno fatto il mio nome. E Berlusconi dice: cioè la Rubi ha denunciato Michelle? Sì, per induzione alla prostituzione. E Berlusconi: una si dà la patente di puttana? Te lo giuro, ride la Minetti, ma roba da matti, dice Berlusconi. Poi però, ovviamente le indagini non erano ancora uscite sui giornali, poi però si entra nei particolari e Berlusconi: vabbè, quello che è importante è che ci siano diverse persone che testimonino come a noi Rubi aveva detto che aveva l'età diversa da quella che aveva. Insomma, una volta che succede quello, non succede più niente. L'abbiamo soltanto aiutata perché ci faceva pena. Minetti però riferisce un dato, scrive il Corriere, che disorienta Berlusconi, ma ha detto Giuliante che questo PM c'ha delle foto in mano che gli ha dato la Michelle, al che la registrazione registra segnala ammutolito per 5 secondi Berlusconi, che poi dice: ho capito, vabbè, speriamo che non venga fuori un casino, sai, basta poco perché quando si tratta di me tutti i giornali sono contenti, vabbè, comunque noi non abbiamo fatto niente di male, eh? Questa la prima telefonata. La seconda telefonata, Raissa Scorchina, 26 settembre 2010, chiama Berlusconi, al quale dice che ha finito la benzina, tra virgolette, dal tesoriere personale di Berlusconi, Spinelli. Raissa: amore, ciao, tutto bene, tu? E Berlusconi: abbastanza, sono pieno delle cose politiche, che è una cosa pazzesca, immaginato, però mi sta finendo la benzina. Ah, ho capito, va bene, lo dico a Spinelli, va bene? E così si conclude la telefonata. E infine, una terza telefonata, 4 ottobre 2010, Berlusconi parla con Maristel Polanco, 3 mesi dopo che il premier ha sicuramente saputo dell'arresto del suo convivente, di Maristel Polanco, per traffico di 12 kg di cocaina. La conversazione ha ampi tratti privati, a base di scherzosi e reciproci cattivona tu, no cattivissimo tu. Qui si darà conto, scrive il Corriere, solo del segno di un intervento di Berlusconi a favore di Maristel nel mondo della TV. Sono a Roma, dice Maristel, sono venuta a fare il casting con Pingitore, ti ricordi? Sì, quello che ti ho procurato io, no? Sì, amore, ride Maristel. Adesso mi hanno chiesto se possono fare qualche numero per le nostre reti, risponde Berlusconi. Sto tentando di convincere mio figlio. Queste le 3 telefonate, pensatene ciò che volete, i dati di fatto sono che queste telefonate, scrive lo stesso Corriere, non andavano trascritte nella procura, non era Berlusconi intercettato ma le 3 persone con cui parlava, non dovevano finire agli atti, vi sono finite sul Corriere della Sera. Il traffico. In primo piano. Intanto l'opposizione va in piazza. Oggi ci sono, per la verità, 3 piazze. Qua cadono anche le bottiglie d'acqua nel frattempo, come il mago Silvan. Ci sono 3 piazze: la piazza del Popolo Viola, la piazza del PD, la terza piazza me la sono persa. Comunque Rosy Bindi, il presidente del Partito Democratico, intervistata all'Unità, dice: il governo è pericoloso, è nostro dovere scendere in piazza, ma io non ho mai pronunciato la parola Aventino. C'era stato questo screzio con D'Alema in aula quando diceva la Rosy Bindi era per abbandonare l'aula. Dice: non ho mai pronunciato la proposta e non ho mai proposto l'Aventino. Non è neanche rispettoso nei confronti di chi in quel periodo fece una scelta così drammatica a usare con tanta leggerezza un simile termine. Però è giusto andare in piazza perché il limite è stato ampiamente superato. Sono a repentaglio la democrazia e i diritti costituzionali. Anche il manifesto a pagina 6 e 7, una legge, 2 processi e 3 piazze, così riassume la giornata politica Andrea Fabozzi, cioè a dire... ci sono le piazze. Per la verità il centro-sinistra del Partito Democratico, che è poi ciò che proviene dai vecchi DS, Insomma, ancora mostra un po' di nervosismo, racconta il Corriere della Sera, per quello che il giornale da ieri, e oggi il giornale ci ritorna, ha ritirato fuori, la vicenda del conto Quercia, Hoc Fund, il conto Quercia del cui dossier ieri il giornale dice siamo entrati in possesso, un conto Quercia, le carte nelle quali emergerebbe un conto milionario nel quale si faceva anche il nome di Massimo D'Alema. Ieri Massimo D'Alema sul Corriere della Sera a pagina 11, fondo Hoc, nuovi sospetti, D'Alema dice sono falsità. Questo Hoc Fund è un dossier che era stato commissionato dall'ex capo della security di Telecom Giuliano Tavaroli, nel quale appunto ricorre il nome di D'Alema, ricorre anche la sigla PF, dice il giornale, che si lascia intendere potrebbe riferirsi a Piero Fassino. Oggi il giornale ci ritorna a pagina 5, va sulle tracce di tale signor Perini. Di questo signor Perini, che, a cui vanno a citofonare proprio il citofono a casa, corso di Porta Romana a Milano, risponde la moglie, mio marito è già uscito, non abbiamo niente da dire. Ebbene, Roberto Perini, nato a Rovereto nel 52, compare nel dossier dell'investigatore privato Emanuele Cipriani, realizzato su incarico di Giuliani Tavaroli, più volte, viene definito in questo dossier come primo Greganti, ovvero il leggendario compagno G, che negli anni 90 gestì per conto del PC i rapporti con l'Enimont di Gardini, e non solo quelli, raccontano Gianmarco Chiocci e Luca Fazzo. Eccolo qui, si concentra oggi sul Mister X dei fondi esteri dei DS, è il nuovo primo Greganti, racconta il giornale. Vabbè, lasciamo le questioni della politica. Come detto, il Sole 24 Ore si concentra sulle nomine delle grandi imprese arrivate ieri, il via libera del tesoro alle società pubbliche, Finmeccanica cambia guida, Giuseppe Orsi è il nuovo amministratore delegato, rimane Guarguaglini ma solo nella carica di presidente, mentre presidente dell'Enel è nominato Paolo Andrea Colombo, dove lì Fulvio Conti rimane amministratore delegato, anche l'Eni ha un nuovo presidente, si tratta di Giuseppe Recchi, mentre mantiene Paolo Scaroni come amministratore delegato, immutati i vertici delle Poste, con un altro mandato triennale per Massimo Sarmi nel ruolo di amministratore delegato e Giovanni Ialongo in quello di presidente. Mentre c'è tempo fino al 17 aprile per Terna, e a pagina 2 e 3 con articoli di Gianni Dragoni e anche un commento di Fabrizio Forché che dice e che scrive il miglior commento sono gli indici di borsa rimasti poco mossi durante tutta la giornata, segno della serenità con cui il mercato ha guardato ieri alle nomine ormai scontate sin dalla mattina nelle grandi aziende pubbliche. Insomma, una serenità e comunque certificata anche dal mercato. A pagina 2 e 3 ci sono anche i profili di chi sono i nuovi cinquantenni che guideranno soprattutto Eni e Enel. Interessante invece, su Repubblica parla per la prima volta con un'intervista Fausto Tonna, uno dei protagonisti condannato anche per il crack Parmalat. Parla a Paolo Berizzi in un'intervista a pagina 21, con richiamo in prima pagina, Tanzi è un codardo. Il ragioniere di Collecchio parla per la prima volta. Intanto dice sul film Il Gioiellino, mai stato un ubriacone io, mai preso decisioni al posto di Tanzi, chi mi dipinge così ne risponderà al momento opportuno e nelle sedi opportune. E poi dice Fausto Tonna, sono l'unico che si è assunto responsabilità, ma ha sbagliato tutto Tanzi, ha fatto investimenti sbagliati in TV, grossi indebitamenti, a un certo punto sia la proprietà che la direzione generale hanno deciso che non volevano uscire coi bilanci in perdita, bisognava fare aggiustamenti per sbianchettare, abbiamo usato anche il pennello e così via via fino alla cosiddetta discarica, la Bond Lat. Ci spieghi i bond tarocchi? Guardi, nel prospetto informativo i bond avevo fatto scrivere che non potevano essere venduti al pubblico, ho i documenti e posso mostrarli, e perché sono stati venduti lo chieda alle banche. Così dice Fausto Tonna, che poi aggiunge le banche loro alla fine ne escono sempre bene. L'ha più visto Calisto Tanzi? In tribunale ha provato ad attaccare Bottone, ma non l'ho nemmeno guardato. Non è leale, è da vigliacchi, non si è mai assunto le proprie responsabilità. Insomma, e poi Fausto Tonna dice: chiedo scusa, se potessi ridarei i soldi di persona a tutti gli investitori, fino all'ultimo euro, ma non ho più niente, mi hanno tolto tutto. Un Tonna che racconta in chiusura di intervista Paolo Berizzi su Repubblica, appare una persona decisamente meno impulsiva rispetto a quella che nel 2004, all'uscita del Tribunale di Parma, augurò ai giornalisti e ai loro familiari una morte lenta e dolorosa. Questo Fausto Tonna intervistato da Repubblica, mentre sulla vicenda del Madoff De Noantri tornano ancora giornali, sia Repubblica sia Il Foglio, con un commento molto salace dei suoi, insomma, di Annalena Benini in prima pagina, sia Il Giornale che Pubblica ci mette l'apertura e pubblica la lista dei 700 a pagina 12-13, dalla A di Abatini Francesco alla Z di Zerletti Maria Grazia, con tutti i soldi che hanno dato, l'elenco delle prime vittime. Poi ci sono c'è gente che ha dato un casino di soldi su Repubblica. Allora, per esempio, a parte che spunta un'altra Guzzanti, Caterina Guzzanti. I Guzzanti sono stati fregati davvero tutti, dal padre, Sabina, Caterina, non so se Corrado, credo di no. Sabina Guzzanti ha consegnato in due tranche, prima 275.000 e poi 31.000 euro. Caterina Guzzanti 88.000 euro. Ruggero Rizzitelli, l'ex giocatore, ha dato, ha investito in questa cosa 4.895.000 euro, quasi 5 milioni di euro. E poi Samantha De Grenet 260.000 euro, ma dice di averli recuperati. I fratelli Vanzina 400 e 631.000 euro. David Riondino 1.314.000 euro. Insomma, si sono persi tantissimi soldi. Il Madoff De Noantri lo trovate su tutti i giornali. Ci fermiamo, Il Giornale Radio, votate il sondaggio e ci ritroviamo dopo. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:21 minuti. Voglio salutare l'onorevole Maurizio Paniz del Popolo della Libertà. Buongiorno onorevole, ben ritrovato. Grazie, buona giornata a tutti. Allora, onorevole, avvocato alpino, l'onorevole Paniz, dicono anche, meno di così dice Repubblica, che sarà avvocato del Premier nel processo definito processo Ruby. Può confermare, smentire? Posso smentire nella maniera più assoluta. Non c'è nessun aggancio diretto con il Premier, ha degli ottimi difensori, Ghedini, Longo, Dinacci, Pecorella, tutti bravissimi, non ha bisogno assolutamente di integrare il suo staff e io comunque non accetterei. Senta, oggi la Camera vota se sollevare alla Corte Costituzionale il conflitto di attribuzione per il processo che inizia proprio domani. Secondo lei, che era relatore alla Camera, insomma, è il Tribunale dei Ministri competente, non la Procura, il Tribunale di Milano. Lei sostenne anche quella tesi che fece molto discutere, nella quale dice si poteva presumere che Ruby fosse davvero la nipote di Mubarak. Questo in Parlamento conferma? Sì, confermo che le carte processuali confermano che il presidente Berlusconi, nel momento in cui è intervenuto con la famosa telefonata del 27 maggio dello scorso anno alla Questura di Milano, poteva pensare che lo fosse, perché c'erano almeno quattro elementi probatori che lo confermavano. Poi starà all'autorità giudiziaria verificare se sì o se no, però quello che deve essere verificato da parte nostra in questo momento è se c'era o non c'era la legittima prospettiva che tale fosse. Sappiamo che però, insomma, è una versione poco credibile ora dai fatti, insomma, che Ruby sia la nipote davvero del presidente egiziano, non è neppure egiziana. Mi pare che sia assolutamente chiaro oggi, con il senno di poi, che le cose sono in questa direzione, ma non è questo il problema che deve essere accertato. Bisogna vedere soltanto se nel momento in cui fece la famosa telefonata poteva pensarlo o poteva non pensarlo, tutto qui. E secondo lei poteva pensarlo? Questo è il motivo? Non secondo me, secondo le carte processuali. Ci sono quattro deposizioni testimoniali che sono state raccolte da parte dei funzionari della Questura, che sono tutte univoche in questo senso. C'è una decina di deposizioni testimoniali delle ragazze alle quali Karima El Marug si presentò come tale. Ci sono due ex datori di lavoro della Sicilia, un architetto e un'imprenditrice, ai quali la stessa Karim si presentò qualificandosi come tale. E poi c'è la famosa serie di deposizioni che una decina di giorni prima del 27 maggio caratterizzano l'incontro tra il presidente Berlusconi e il presidente Mubarak, nel quale si è parlato di questa conoscenza. Quindi, che era stata per questi motivi andrebbe processato secondo lei al Tribunale dei Ministri, perché Berlusconi intervenne per evitare che cosa? Una crisi diplomatica? Presidente Berlusconi intervenne soltanto per verificare qual era la situazione, niente più e niente meno. Questa verifica, tenuto conto di questa possibile parentela, legittima un suo intervento e uno suo giudizio successivamente da parte del Tribunale dei Ministri, perché le regole sono queste. Poi il Tribunale dei Ministri accerterà se la competenza funzionale propria era corretta o non corretta, ma il frutto di questa valutazione spetta proprio al Tribunale dei Ministri. Lei... questa è la tesi che è stata esposta. Certo, questa è una difesa, lei è anche avvocato appunto, non di Berlusconi, però in punta di diritto, voglio dire, è una difesa molto molto accurata anche e, leggendo gli atti, insomma, poi sa, gli atti ognuno li legge, l'accusa li leggerà in modo diverso ovviamente. Ma lei non ha davvero nessun dubbio in tutta questa vicenda che inizia domani? Cioè... su dubbi su che cosa? Sul fatto che il presidente Berlusconi si sia comportato in maniera corretta dal punto di vista del diritto, dal punto di vista che le accuse siano assolutamente accuse sbagliate. Secondo me si è comportato in maniera assolutamente corretta. Per quanto riguarda le accuse, escludo nella maniera più assoluta, per quanto riguarda le mie conoscenze, che si possa ipotizzare il reato di concussione, perché non vi è stata alcuna violenza nei confronti del funzionario, alcuna pressione nei confronti del funzionario, ma soltanto una telefonata informativa, mentre per quanto riguarda il secondo reato, quello relativo al sesso con minorenne, sarà l'istruttoria dibattimentale che proverà se questo si è verificato o non si è verificato. Per il momento abbiamo la serie di dichiarazioni della ragazza che ha escluso di aver fatto sesso con il premier, ma mi pare che questo problema sia un problema che accerterà l'autorità giudiziaria. Beh, questo sì, poi il sesso bisogna capire, cioè, se queste anche feste, sesso vuol dire tante cose anche nel caso, vabbè, ma insomma non è questa la sede processuale. Senta, ha già letto il Corriere della Sera questa mattina? Ce l'ho il seguito ma non l'ho ancora letto. Vabbè, avrà visto che il Corriere pubblica tre telefonate che, scrive lo stesso Corriere, non dovevano finire neanche in trascrizione nelle carte giudiziarie, ma sono finite, nelle quali Berlusconi, che non è intercettato, ma sono intercettate le persone con cui parla, tre ragazze, una è la consigliera regionale Nicole Minetti. In una di queste intercettazioni Berlusconi dice a Nicole Minetti: quello che è importante è che ci siano diverse persone che testimonino come a noi Ruby aveva detto che aveva l'età diversa da quella che aveva. Insomma, una volta che succede quello, non succede più niente. È vero, non che sia una considerazione assolutamente giusta. Beh, scusi, sembra come dire, l'importante è che al processo ci siano testimoni che dicono cose, che dicono che abbia un'età diversa da quella che aveva. Insomma, non lei... diversa da quella che aveva, se questa da quella che aveva verità, detto che aveva. Questo era il convincimento che le persone avevano in quel periodo, credo che sia legittimo che emerga dalla fase dibattimentale. Si tratta di vedere se questo convincimento era legittimo o non era legittimo, si tratta di vedere se alle amiche, alle conoscenti, alle persone che c'erano intorno si è presentata come una persona maggiorenne o come una persona non maggiorenne. Stando all'intercettazione che, ripeto, non sarà utilizzabile, dice Berlusconi, l'importante è che ci siano testimoni che dicono che come a noi Ruby aveva detto che aveva un'età diversa da quella che aveva, cioè da quella che aveva, come dire, che sappiamo che aveva. Non che sappiamo che aveva, la testimonianza va riportata esattamente nel suo contenuto. È importante che ci siano testimoni che confermino che la ragazza ci aveva detto di essere maggiorenne. Lei capisce perfettamente che se questa ragazza ha più persone ha detto che era maggiorenne, certamente il convincimento della sua minore età viene meno. Si tratta di fare un'istruttoria, come dico, dibattimentale nel corso del processo, nel quale queste circostanze devono essere o provate o non provate. Se saranno provate arriverà un certo esito, se non saranno provate l'esito sarà diverso, ma i giudici sono fatti apposta per verificare. Un'ultima domanda, onorevole Panizzi. In un'intercettazione, Berlusconi, sempre di queste, parla con tale Maristel dicendo: il casting che ti ho procurato io, cioè era a Roma per un casting. La cosa a me non sconvolge più di tanto. Il Corriere però dice: questa telefonata avviene con questa Maristel 3 mesi dopo che il premier ha sicuramente saputo che il compagno di Maristel è stato arrestato per traffico di 12 chili di cocaina. Secondo lei è improprio che un presidente del Consiglio frequenti telefonicamente una persona il cui convivente è stato arrestato per questo traffico? Oppure... Io non credo che le colpe dei padri devono ricadere sui figli. Non credo che le colpe di un compagno debbano ricadere su una compagna, ammesso che lo fosse ancora, ammesso che lo fosse stata davvero e così via. Io credo poi che bisogna fare a verificare se questa conoscenza del comportamento del compagno di questa ragazza fosse obiettivamente nota o non nota al Presidente del Consiglio. Noi diamo per scontato tutto, in realtà così non è. Nel quadro processuale le cose scontate non esistono, le cose vanno verificate. Soltanto se ci fosse stata una consapevolezza piena di una frequentazione con persone che non erano degne di un vivere civile per i comportamenti illeciti che avevano tenuto, allora si può discutere sulla opportunità o inopportunità della telefonata. Si dice, però non lo sappiamo da questa telefonata. Va bene, io la ringrazio, onorevole, per essere stato con noi. Grazie, buona giornata a lei, onorevole Maurizio Panis del Popolo della Libertà. Le intercettazioni sicuramente faranno molto discutere, queste sul Corriere della Sera, anche per il fatto che sono state pubblicate, no, non perché sono state pubblicate, ha fatto bene il Corriere a pubblicarle, il fatto che la Procura le abbia inserite in questi verbali, perché come cita lo stesso Corriere, queste trascrizioni non dovevano finire per legge in questo faldone negli atti processuali. Ci sono finite, come mai? Chi lo sa? Ci fermiamo per la pubblicità del meteo, poi parliamo dell'immigrazione, non delle intercettazioni. Immigrazione. Dare soldi alla Tunisia per risolvere il problema degli immigrati? Che ne pensate? Votate su Radio24.it tra poco. 24 mattino. Alle 8:35 minuti, allora parliamo di immigrazione nel nostro sondaggio. Oggi Libero titola così: meglio pagarli che tenerli. È un po' il tema del nostro sondaggio, gli accordi economici, aiuti economici alla Tunisia per ridurre gli sbarchi. Questo chiediamo ai nostri ascoltatori, che ne pensate? Siete d'accordo? Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in vita. Bianco o nero? Per ora prevalgono i no al 64%, ma vogliamo discuterne di quello che sta succedendo, del viaggio ieri del Premier, del Ministro Maroni e del Sottosegretario agli Esteri, l'onorevole Stefania Craxi, che è nostro ospite, che saluto. Buongiorno, onorevole Craxi. Sì. Buongiorno. Vogliamo parlare di questo e di come gestire la situazione. Con lei c'è anche l'onorevole Livia Turco, del Partito Democratico, responsabile dell'immigrazione del partito. Buongiorno, onorevole Turco. Buongiorno, grazie. Senta, sottosegretario Craxi, meglio pagarli che tenerli, è un titolo che le piace, che insomma è un po', insomma, diretto, ma fa capire la questione. Scusi, noi adesso stiamo indubbiamente affrontando un'emergenza, ma l'immigrazione è un tema complesso, è un tema epocale, non transitorio, che non si presta né a slogan né a rodomontate, neanche peraltro alla strumentalizzazione che la fa la stampa d'opposizione stamattina, dove leggo un titolo: Tunisi ha detto no a Berlusconi, io c'ero, Tunisi ha detto sì a Berlusconi. Sì, è il titolo ed di è Repubblica. Anche un tema che va affrontato, mi scusi, con animo generoso, se mi consente. Con animo generoso. Insomma, che è successo ieri a Tunisi? Perché l'agenzia di stampa tunisina, per esempio, ufficiale, dice l'accordo non c'è, cioè formalizzato. No, allora, ieri il primo ministro tunisino ha intanto naturalmente ribadito i grandi sentimenti di amicizia che legano la Tunisia all'Italia, un paese per loro strategico e per noi un partner indispensabile nell'area mediterranea. Dopodiché si è detto politicamente disponibile all'accordo, sia per quanto riguarda il controllo delle coste, sia per quanto riguarda la riammissione dei molti tunisini che sono scappati in questi mesi. Dopodiché si sono fermati 4 funzionari del Ministero degli Interni per, come dire, stabilire i dettagli dell'accordo sulle riammissioni. Stamattina ritornerà il ministro Maroni per definire gli ultimi dettagli, quindi è anche un tema che non si presta, mi scusi, alla velocità sacrosanta che i media devono avere nelle risposte, ma il rapporto fra stati risponde ad altre logiche e anche l'azione del governo, se mi consente. Allora, io vorrei chiedere che ne pensa, insomma, di quello che sta succedendo anche l'onorevole Livia Turco, e anche aggiungere una domanda sul fatto che pare che ieri la Lega abbia aperto a quella all'accettare, insomma, quella formalizzazione del far firmare gli articolo 20 della legge Bossi-Fini a molte di queste persone, per cui gli si dà un permesso di soggiorno temporaneo in modo che possano muoversi nell'area Schengen in maniera libera, magari andare anche all'estero, non essere respinti dalla Francia. Onorevole Turco, che ne pensa? L'articolo 20 non è della Bossi-Fini, è della legge dell'Ulivo, che è stata confermata dalla Bossi-Fini nel testo unico. La facemmo noi nel 1996, la utilizzammo in un'occasione quando ci fu uno sbarco di tunisini e della ministra di interni Giorgio Napolitano, e poi successivamente durante la drammatica vicenda guerra nei Balcani e l'afflusso fortissimo di profughi dal Kosovo e dall'Albania. È uno strumento importante che consente di dare certezza alle persone che sono qui, quindi risponde a una domanda di sicurezza, e nello stesso tempo consente il successivo rimpatrio oppure la regolarizzazione nel nostro paese, e consente soprattutto la circolazione in altri paesi europei. Quindi sarà Lega accettato. Perché stiamo parlando di uno strumento temporaneo. Certo, quindi sarà contenta se la Lega... Abbiamo sempre pensato e abbiamo sempre detto, fin dalla conferenza sull'immigrazione che abbiamo tenuto 15 giorni fa, che lo strumento da utilizzare era questo, perché quando si parla di politica europea, questo è uno strumento che... Perché come funziona? Funziona che lo Stato italiano deve proclamare di utilizzare l'articolo 20, a quel punto la commissaria europea utilizza la direttiva europea 55 del 2001 relativamente all'afflusso massiccio di persone e convoca il Consiglio dei Ministri, in questo caso i Ministri degli Interni, degli Stati membri, i quali a maggioranza qualificata devono decidere se ciascuno partecipa all'accoglienza di persone. Mi scusi, quindi se la Lega accetta questo passo è un punto che vi soddisfa, insomma, voglio dire... È un punto che ci soddisfa, vuol dire che la Lega sta cambiando posizione sull'immigrazione, e questo è sicuramente molto importante. Onorevole Craxi, perché guardi, oggi non so se ha già visto i giornali, il Corriere della Sera per esempio propone un'intervista al ministro del turismo tunisino Mehdi Awas, il quale però la pone anche su una questione economica, dice: cercate di capire non tanto all'Italia ma a livello europeo, abbiamo un'economia che è crollata per la rivoluzione, per i 19 anni di dittatura di Ben Ali, insomma pone sul piatto della bilancia degli aiuti concreti, parla di 5 miliardi di euro addirittura, un piano per la Tunisia. Scusi, innanzitutto vorrei dire che ieri è stato proprio fatto questo, è stato tutto rimesso in una cornice di solidarietà verso un paese amico che sta vivendo un momento di transizione complicata, una crisi economica difficile. L'altra cosa che però volevo dire prioritariamente è che noi stiamo valutando naturalmente l'utilizzo dell'articolo 20, però quello che stiamo facendo è mettendolo non come prima soluzione, nel senso che noi dobbiamo intanto dare un segnale ai tanti tunisini che stanno arrivando. Non è il modo di arrivare in Italia né di costruirsi un futuro migliore. L'Italia accoglie ogni anno migliaia di lavoratori attraverso flussi regolari che vengono nel nostro paese, partecipano a sostenere il nostro sistema economico. Quello è il modo per arrivare nel nostro paese, non con i barconi in mano ai trafficanti di esseri umani. Cioè c'è il rischio che, se no, questo messaggio dice c'è l'articolo 20 che dà permessi di soggiorno, arrivano tutti. Cominceremo a stringere con questi paesi mediterranei una politica di riammissione, cosa che stiamo facendo oggi con la Tunisia. Dopo prenderemo in esame questo provvedimento che indubbiamente aiuterà ad alleggerire il carico che il nostro paese sta subendo in questo momento. Tra l'altro vi sta ascoltando, io voglio salutarla, la presidente di Pontes, Associazione Pontes dei Tunisini d'Italia, Yujdan Mejri, che saluto, buongiorno, sperando di averla pronunciato il nome e il cognome correttamente. Senta, le chiedo, chi sono questi tunisini? Lei si è fatta un'idea da tunisina, da persona che è in contatto con la Tunisia, cercare di capire anche cosa sta succedendo in quel paese che è reduce da una situazione di rivoluzione, come si è detto. Chi sono quelli che sbarcano in Italia? Allora, confermo effettivamente la situazione di crisi economica della quale sta passando la Tunisia, ma anche un momento di grande cambiamento. Questo cambiamento prenderà tanto tempo, e quindi sia da parte dell'Europa sia da parte dei paesi limitrofi noi stiamo richiedendo aiuto anche per gestire i profughi che abbiamo sulle nostre frontiere, in particolare su quella libica. Questi ragazzi sono fondamentalmente dei giovani che avevano voglia di partire, di viaggiare, di con una grande speranza di migliorare la propria vita, ma questo già prima della rivoluzione. Rispetto a quanto riguarda il modo di arrivare in Italia, io vorrei ricordare all'onorevole Craxi che in realtà da 3 anni nessun visto viene dato ai giovani di meno di 35 anni, abbiamo problematiche anche per i ragazzi che vogliono venire a studiare in Italia. Per quanto riguarda l'Italia, ma anche per l'area Schengen. E però generale, si dice di queste, fuggono da una situazione di caos, di perché questo cambia anche, no? nel certo, considerarli magari nello status loro. È davvero certo così? Cioè fuggono da una situazione di caos oppure... Fuggono da una situazione di difficoltà estrema a livello economico, non vedono un futuro subito in quello che è la Tunisia della transizione, un futuro di libertà, ma a questi ragazzi servirebbe in questo momento lavoro e immaginare di poter crearsi anche una famiglia. Loro hanno questo sogno, questa illusione, che chiamerei più illusione, di venire a trovare questa risposta in Europa. Però quello che in questo momento non è molto chiaro per questi giovani è l'accoglienza piuttosto che l'apertura dell'Europa. Infatti non si stanno applicando le leggi, diciamo, come dovrebbero essere, anche se poi stamattina stiamo sentendo di novità sul fatto di dare uno status abbastanza particolare. Di cui si sta discutendo. Ecco, riguardo a questo punto io tornerei sul fatto dell'accordo con la Tunisia. Non bisogna dimenticare che questo governo di transizione non è più il governo Ben Ali e non siamo più parlando di politiche di respingimento, non possiamo più presentare da parte nostra un'idea di una politica in cui la gente veniva respinta sparando alle persone piuttosto che mettendo tornava indietro nelle carceri. Quindi per questo l'Italia oggi e stamattina con la delegazione deve proprio considerare il fatto che il nostro Premier non potrà accettare una politica vecchia di vecchio stile dura, insomma il fora di ballo, diciamolo francamente. E da qui voglio ripartire dall'onorevole Livia Turco dopo il traffico, anche perché lei dice non è più il governo Ben Ali, però non è neanche il governo legittimato, nel senso che è un governo di transizione prima di luglio delle elezioni, per cui non si capisce neanche quanto potranno durare degli accordi eventuali con un governo tunisino che oggi c'è, a luglio sarà un altro, tra poco. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, parlando di immigrazione, vorrei chiedere all'onorevole Turco cosa criticate della gestione invece che degli immigrati che sono in questo momento sul territorio italiano? Perché lei, onorevole Turco, nei primi giorni aveva detto anche un uso strumentale di questa... Sì, dunque noi stiamo parlando di un flusso migratorio sicuramente consistente, ma che non ha paragoni rispetto ad altre emergenze successe nel nostro paese. Si chiede all'onorevole Boniver che cosa significò l'arrivo di 20.000 tunisini albanesi all'improvviso o che cosa significò accogliere e far fronte alla guerra nel Kosovo e ai cambiamenti che ci furono in Albania. Quindi è un consistente ma assolutamente gestibile. Sono due mesi che è arrivato questo flusso. Noi abbiamo avuto la situazione singolare di un ministro degli interni che convoca le regioni e che propone un patto alle regioni per gestire futuri 50.000 profughi che devono venire dalla Libia e che sta con le mani in mano e lascia esplodere i problemi dei 5.000 e 7.000 concentrati a Lampedusa. Ci è voluto la sommossa popolare dei lampedusani per scuotere il governo e io che sono stata a Lampedusa e ho visto con i miei occhi, mi sono vergognata del modo con cui abbiamo accolto quelle persone. Se non fosse stato per i lampedusani che si sono sostituiti allo Stato e sono stati capaci di impegno, generosità, dalle scarpe ai vestiti, al cibo, alle coperte, saremmo sarebbe stato ancora peggio. Quindi questa è quindi l'accusa è, l'accusa è questa, cioè di avere sottovalutato, di essere stati inefficienti, ma soprattutto di aver fatto anche un uso politico di questa vicenda, lasciarli assiepati a Lampedusa per poter dire lo solito slogan leghista che siamo invasi, salvo poi capitombolare e dover prendere atto che non c'è altra politica dell'immigrazione che non siano dei seri accordi bilaterali. Accordi bilaterali, lo voglio dire alla sottosegretaria Craxi, che devono prevedere anche un costante ingresso regolare attraverso le quote che questo governo ha sospeso, perché il governo, attraverso anche un emendamento dello stesso ministro Maroni, ha chiuso l'ingresso regolare, salvo poi ricorrere al ridicolo click day, ma ha chiuso l'ingresso regolare, se non per gli stagionali e se non per il lavoro domestico. Insomma, le accuse sono molto, molto chiare, onorevole Craxi. L'idea è forse arrivano 50.000, ma neanche, dice l'onorevole Turco, siamo riusciti a gestirne 5.000, 7.000. No, la verità è che noi ci aspettavamo appunto l'arrivo di profughi, non di immigrati irregolari in massa dalla Libia, siamo stati presi in contropiede dell'arrivo di tanti giovani tunisini che sono appunto immigrati irregolari nel nostro paese. Detto questo, il governo sta approntando un piano per sollevare Lampedusa, che è stata comunque liberata oggi o ieri, se avete visto le immagini, nel giro di poche ore. Un piano che prevede che i clandestini verranno spalmati sul territorio nazionale, e io penso che le regioni del nord non possano pretendere di trattare le regioni del sud come l'Europa vuole trattare l'Italia. È qui il tema con la Lega. Prende le sue responsabilità. È vero che sono stati bloccati i flussi perché stavamo assorbendo i cittadini stranieri già presenti sul nostro territorio, perché, come dire, avere un comportamento umano non significa promettere cose che non si possono mantenere. Noi possiamo accogliere quei cittadini che da noi trovano un lavoro, una casa, una sistemazione onorevole, che non vuol dire tutti. Vuol dire anche che questa emergenza ha bisogno di una strategia a breve termine che riguarda il controllo delle coste, quindi attraverso l'implementazione di Frontex, la missione europea per il controllo costiero. Significa che bisogna pretendere dall'Europa che faccia la sua parte, ma significa soprattutto avere una strategia a lungo termine, ovvero l'Europa si deve dotare di una politica comune dell'immigrazione. Comunque lei ci ha detto vadano anche al nord, cioè, quindi è conciliabile l'idea del, lo traduco così, il fora di Baal, perché l'ha detto Umberto Bossi, con la politica invece di governo. No, ma io non sono Umberto Bossi, quindi alcune espressioni io le ho definite rodomontate, non servono a risolvere il problema. Eccitano inutilmente gli animi dei cittadini italiani che, vedendo questo disordine, sono spaventati, quindi bisognerà molto lavorare sui flussi regolari, sulla formazione, sulla possibilità di incontrare l'offerta e la domanda di lavoro, perché il nostro sistema produttivo ha bisogno degli immigrati. Allora, siccome io ho due minuti per chiudere, mi fate fare una domanda all'onorevole Craxi e all'onorevole Livia Turco sull'attualità politica, perché onorevole Craxi, si evocano sulla questione delle piazze, l'opposizione va in piazza, Di Pietro dice se la maggioranza viene in piazza gli tireremo le monetine. Quando si ricordano le monetine, ricordiamo tutti ovviamente l'episodio che coinvolse suo padre Bettino Craxi. Che ne pensa di quello che sta succedendo a livello politico? Io penso che riforme importanti in questo paese dovrebbero essere riforme condivise, riforme fatte anche con la responsabilità dell'opposizione. Spiace vedere che questo non è possibile, e spiace vedere che certa parte dell'opposizione, non tutta onestamente, però fa ricorso alle piazze, soprattutto crea un clima infame, e quando si crea un clima infame prima o poi si trova anche il matto che spara, e questo è un grande pericolo per il nostro paese. Addirittura teme questo? Temo la violenza in generale, mio padre ne è stato vittima, una violenza cieca, barbara, che ha portato poi il nostro paese a distruggere un sistema politico con i risultati che poi abbiamo sotto gli occhi. Onorevole Livia Turco, che ne pensa? Perché il PD è in piazza e va in piazza. Sono sempre state un luogo di partecipazione popolare, e peraltro sono state ampiamente utilizzate, per non dire anche aizzate, dall'attuale Presidente del Consiglio, e solo ieri e l'altro ieri abbiamo sentito il Ministro Alfano, quindi un Ministro di Grazia e Giustizia. Io quando ero Ministro non lo facevo questo, un Ministro di Grazia e Giustizia, dire le piazze. Il governo attuale ha un interlocutore che vorrebbe, noi vorremmo risolvere i problemi del paese. Noi vorremmo risolvere i problemi veri della giustizia, vorremmo poter dare una mano per risolvere i problemi gravissimi della crisi economica e sociale del nostro paese, soprattutto per i giovani, vorremmo dare una mano per risolvere il problema dell'immigrazione. Io l'ho detto, vorremmo dare una mano, vorremmo collaborare, abbiamo governato, abbiamo delle proposte, ne abbiamo delle proposte. Però ci siamo sempre trovati di fronte un interlocutore che è diviso, che improvvisa, che non si sa quello che vuole e soprattutto un esecutivo che è tutto compattamente concentrato a risolvere i problemi personali di Silvio Berlusconi. Non siamo noi che ce l'abbiamo con e quindi dice, non c'è nessun dialogo. Questa maggioranza che è ossessivamente legata e concentrata a risolvere i problemi di Silvio. Le posizioni sono molto chiare, io qui vi ringrazio il sottosegretario agli esteri Stefania Craxi, l'onorevole Livia Turco del Partito Democratico e Wujdan Mejri, che è presidente di Pontes, dei tunisini d'Italia. Grazie per essere stati con noi. Continua il dibattito su Facebook 24 Mattino, è la nostra pagina. Siamo quasi arrivati a 2.500, forse oggi superiamo i 2.500. Vedo Alessandro Longoni là che fa una faccia strabuzzata, dovrebbe saperlo a memoria il numero, invece no. Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione con Peter Bescapè e l'Alpino in regia. E allora, che dire, noi diamo la linea a Oscar Giannino. Come di consueto ci troviamo domattina alle 7.20.